GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi in regione alle commemorazioni per i 60 anni della tragedia del Vajont. Si intitola Vajont S23, l'azione di teatro civile a ricordo dei 60 anni dal disastro, in un'iniziativa nata dall'attore Marco Paolini, che andrà in scena in contemporanea in 130 teatri d'Italia. Alla ricerca del vento perduto nel Golfo di Trieste, ieri al traguardo della Barcolana ha fissato la prima boa la spuntata Arca di Furio Benussi. Anche in regione oggi è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dall'Unione Sindacale di Base, USB. Tanti motivi per la difficile situazione in classifica dell'Udinese, si va dagli infortuni degli attaccanti all'amalgama della squadra ancora da perfezionare. Basket, tutte e tre le squadre regionali in A2 tornano a casa vincitrici. Alle 7.19 di lunedì 9 ottobre un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto la pagina del tempo, cielo poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 18,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi, Udine 16,5 gradi, Gorizia 15,5 gradi, Pordenone 15 gradi, Piancavallo 19, Forni di Sopra 16, Tolmezzo 12, Tarvisio 11 gradi, Sappada 10 gradi e 5 decimi, Montelusari Zoncolan la stessa temperatura di 14 gradi, tornando sulla costa grado 18, Lignano 18 gradi, temperatura del mare nelle due località 21 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, cielo in genere poco nuvoloso per velature più consistenti dal pomeriggio, temperature molto sopra la media del periodo, specie in montagna, di mattina sulla costa potrebbe soffiare borino, in giornata brezza. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi per le commemorazioni del 60° anniversario del disastro del Vajont. Il programma della giornata del Capo dello Stato prevede una visita istituzionale in due tappe. La prima sarà alle 11 al cimitero monumentale di Fortogna, dove riposano 1910 vittime della catastrofe. Ad attenderlo ci sarà un coro di 487 bambini, ognuno con un cartello con i nomi dei 487 giovani fino ai 15 anni morti a causa della tragedia. Il coro sarà accompagnato da Paolo Freso e dal quartetto d'archi Alborada. Il presidente Mattarella deporrà una corona in ricordo delle vittime. Le campane di tutte le chiese suoneranno 1910 rintocchi. La seconda tappa si svolgerà nel piazzale davanti alla diga nel comune di Erto e Casso, dove dal palco verranno pronunciati discorsi commemorativi. Accanto a Mattarella ci saranno il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, i sindaci di Longarone, Erto e Casso, Vajont e Ponte nelle Alpi. Sergio Mattarella, spiega il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, è già stato in visita al cimitero di Fortogna nel marzo del 2019 e per il 60° farà sentire la presenza dello Stato a fianco dei familiari delle vittime, dei superstiti e dei sopravvissuti, ma anche dei tanti soccorritori e della macchina della solidarietà che si è mossa fin dall'indomani della tragedia. Alla commemorazione di oggi sarà presente anche Carlo De Lorenzi con la madre Elsa. Lui è ora 60enne ed è stato il primo bambino di Casso a venire alla luce dopo il disastro del Vajont, 19 giorni dopo, il 28 ottobre. Se quel giorno là i miei si fossero fermati a Longarone, non ci sarebbe la mia famiglia qui. Però destino voluto questo. Mia mamma è rimasta in ospedale perché è stata portata a Belluno con l'elicottero il giorno dopo. Mia mamma è rimasta lì e finché ha partorito. Che ricordi hanno i suoi di quella notte? Un brutto ricordo perché hanno avuto l'acqua che è entrata dentro in casa, dentro in camera. Mia mamma ancora a letto, pieno di sassi. Si sono salvati tutti per miracolo. Tuo padre poi ha costruito anche delle dighe in vita sua, mentre tu non riesci più ad affrontare una diga. Io ho paura delle dighe, proprio passarci sopra. Se non ci fosse l'acqua sì, ma con l'acqua, anche quando andiamo in giro, ci sono le dighe, io non passo di là. Io ho proprio il terrore dell'acqua, anche quando usciamo magari in barca. Cosa prova tutti gli anni il 9 ottobre e cosa proverà quest'anno? Io mi emoziono ogni volta lì a Casso, perché c'è un silenzio totale, si prega e quando si arriva lì sotto la diga senti che c'è ancora qualcosa. Vajont, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola Vaillant S23, l'azione corale di teatro civile a ricordo dei 60 anni della tragedia, in un'iniziativa nata dall'attore Marco Paolini che traccerà un ponte ideale fra il ricordo del dramma di allora e un monito a rispettare l'ambiente che ci circonda e che oggi è in pericolo. Il progetto sarà messo in scena in contemporanea in 130 teatri, dall'Alto Adige alla Sicilia e anche all'estero, proponendo un allestimento proprio e fermandosi alle 22:39, l'ora in cui la montagna fra nella diga. L'evento organizzato a Trieste vedrà la partecipazione del fisico del clima Filippo Giorgi, direttore del Centro Internazionale Fisica Teorica Bussolam, appuntamento al Teatro Aristoria alle 21:30, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ancora a Trieste, Vaillant S23 sarà messo in scena dalla Contrada negli spazi della Kleine Berlin di via Fabio Severo alle 21:30 con uno spettacolo di letture sceniche a fare d'epilogo l'intervento accademico di Paolo Quazzolo, professore associato di storia del teatro all'Università di Trieste. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Vaillant S23 sarà curato da Roberto Valerio e vedrà riuniti sul palcoscenico tutti i dipendenti e i collaboratori del teatro in un racconto che rievocherà la grande tragedia costata la vita a 2000 persone. Appuntamento alle 21:15 e ancora Udine, Vaillant S23 sarà messo in scena dalle attrici Rita Maffei e Nicoletta Oscuro al Teatro Paramostre alle 21. A Gradisca di Isonzo proporrà la proiezione del film Vaillant per la regia di Renzo Martinelli al Nuovo Teatro Comunale alle 20. Seguirà la Dosolina, opera liberamente tratta dal racconto del Vaillant di Marco Paolin e Gabriele Vacis. Altra iniziativa commemorativa è quella della Cineteca del Friuli, che pubblica le DVD Vaillant 60, documentari 1961-1966, in cui sono raccolti 4 documentari di cineasti professionisti che figurano tra le più importanti testimonianze dell'epoca. Appuntamento a Gemona al Teatro Cinema Sociale alle 20:30 con la proiezione di uno dei documentari inclusi nel DVD, La tragedia del Vaillant 1964 di Luigi Di Gianni. La Luna sott'acqua è il film documentario del regista Alessandro Negrini, nato dopo 10 anni di riprese, che narra la comunità di Erto come oggi, divisa tra il desiderio di rinascita e il bisogno di preservare la memoria del doloroso passato. Il film, prodotto da Incipit Film di Udine, che si avvale della voce narrante dell'attrice Maria Pia Di Meo, nota per i doppiaggi di personaggi del calibro di quelli interpretati dalle stelle di Hollywood Meryl Streep, Jane Fonda e Vanessa Redgrave, verrà proiettato oggi a Pordenone al Cinema Zero alle 20:45, alla presenza del regista. Lo abbiamo intervistato per chiedergli da cosa nasce il progetto del film. La Luna sott'acqua nasce dal desiderio di trasformare in racconto una sensazione netta che ho avuto dalle prime volte in cui andai a Erto, ma che hanno tutti quelli che vi arrivano, secondo me. E c'è la sensazione di un luogo sospeso tra la memoria e il sogno, tra le cicatrici e il desiderio di una normalità, di una felicità agguantabile. Che cosa voleva trasmettere mediante questa pellicola? Vuoi trasmettere la sensazione che nel mondo ci sono come dei boschi viventi che sopravvivono a quella che Edoardo Galeano chiamava l'amnesia obbligatoria. E Erto, nella sua lotta per esistere, rappresenta questo. Rappresenta una storia che si declina in tante altre storie ovunque nel mondo, dove si lotta per esistere e per una memoria che deve rimanere viva e palpitante. Che cosa l'ha colpita maggiormente in questi 10 anni di riprese nel contatto con queste persone che hanno questa storia così particolare e per fortuna anche diciamo di altri così unica? Beh, mi ha colpito la grande dignità di queste persone che sono abitate da una ferita che è dentro di loro ma è anche davanti a loro, perché hanno questo squarcio nella montagna davanti a loro ogni mattina quando si alzano. E poi mi ha colpito questo pudore nel parlare di questa tragedia. Forse è una cosa che capita ovunque, si è subito uno scippo di vita e uno scippo di futuro. Però ecco, questi sono due elementi che mi rimangono dentro: la dignità, la voglia di resistere di questo paese e una sorta di pudore quasi nel parlare di questo vuoto che si portano dentro. E oggi il giornale radio regionale del Friuli Venezia Giulia delle 12.30 potrebbe non andare in onda, oppure lo farà in forma ridotta, in concomitanza dello speciale del GR1 60 anni della tragedia del Vajont. Voltiamo pagina e passiamo alla regata triestina della Barcolana di ieri, che dopo 55 edizioni si interroga sul suo futuro e soprattutto riguardo alla sua formula, ma a detta della maggioranza, squadra che vince non si cambia. Barcolana che toglie il fiato anche se priva del suo ingrediente fondamentale, il vento. Le vele sono accarezzate da pochi sbuffi, ma nel Golfo di Trieste ci sono 1773 imbarcazioni e la festa del mare che rende speciale la regata da 55 anni. La scelta della giuria di mettere il traguardo in Boa 1 non toglie spettacolo. Era già successo anche nel 2014, la prima da presidente della Velica Barcole Grignano per Jaluz. La scelta del comitato di regata guidato da Giancarlo Crevatin, ottima, perché consentirà di arrivare al traguardo il più alto numero possibile di imbarcazioni. La Barcolana non è dei primi, la Barcolana è di tutti e quindi ci siamo dovuti giustamente preoccupare di garantire la possibilità di arrivare anche alle barche di 6 metri, di 7, di 8 metri, le barche da crociera che così coroneranno il loro sogno, quello di essere in classifica la Barcolana 55. Barcolana fa vivere emozioni speciali a chi, come il ministro Lollobrigida, la vive per la prima volta a bordo di un'imbarcazione, un maxi, Prosecco Dock Shockwave 3, ma anche a chi, in mezzo a migliaia di persone, la osserva da terra, come il ministro Abodi. E questa iniziativa, la Barcolana, è un'eccellenza, Trieste è un'eccellenza italiana, la città più italiana d'Europa e più europea d'Italia, una porta di accesso naturale ai mercati che noi vogliamo, tra virgolette, invadere con la nostra qualità, ancora di più di quanto non si sia fatto in passato. Viverla in prima persona è tutta un'altra situazione, perché io credo che le relazioni umane siano importanti per capire i fenomeni. Questo è sicuramente un fenomeno popolare e sarà la prima di una serie di edizioni alle quali mi auguro di poter partecipare e alle quali speriamo di dare sempre maggior sostegno, perché possa perpetuarsi il successo e possa anche aumentare, partendo proprio dalla partecipazione dei bambini e bambine, i giovani che, se conoscono la vela, secondo me non solo la amano ma la praticano. Seconda domenica di ottobre, tutti insieme, la formula è vincente e non cambierà. Siamo orgogliosi di avere la più grande regata al mondo, di averla organizzata qui in Friuli Venezia Giulia. Ecco, questo credo che sia il messaggio che deve venire oggi dal Molo Audace. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alla ricerca del vento perduto, potrebbe essere questo il titolo per ricordare la 55esima edizione che la mancanza di vento ha limitato alla prima boa per la vittoria di Arca di Furio Benussi. Il mare caldo rende quasi gradevole il tradizionale tuffo per i vincitori in acqua. Con Furio Benussi ci finisce anche la figlia Marta, 16 anni. Ha passato parte della Barcolana vinta da Arca al timone. Sono super grata a mio papà che mi ha permesso comunque anche solo di timonare un pezzo e di avermi messo come timoniera. Comunque erano condizioni difficili, soprattutto per me che non sono abituata, quindi ha fatto lui. Quando ha preso un attimo la situazione ha lasciato finire a me. Furio, l'orgoglio di papà, faccelo sentire. Ah, no, non si può far sentire un orgoglio di papà, è l'orgoglio di un team, è l'orgoglio di una squadra. In un'edizione senza vento, sospesa alla prima boa come non succedeva dal 2014, vince l'equipaggio con l'imbarcazione più veloce. La chiglia basculante e la maggior superficie velica concedono di raggiungere i 5 nodi di velocità nell'ultimo tratto. L'arrivo, quasi un'ora e 50 minuti dopo una partenza in cui muoversi è ancora più complicato del solito. Manovre ridotte quasi allo zero, una sola virata quando cambia la direzione della leggera brezza. I maxi navigano in linea retta e si marcano a vista, sperando che Eolo gli aiuti. Alla fine un po' di spettacolo arriva lo stesso, la battaglia per il secondo posto si risolve con un'orzata al fotofinish, con Prosecco Dock che supera Way of Life sulla linea di boa, tagliando il traguardo volante con 6 secondi di anticipo, il derby tra sloveni e quindi di Mitja Kosmina. Era molto dura, era psicologicamente momento clou della regata, però alla fine super contenti. Poche le barche al traguardo, non più di 220 sulle 1773 partite, tra queste però gloria per qualche piccola che soprattutto per larghi tratti all'inizio ha approfittato di leggerezza e condizioni del vento per mettersi in luce. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È previsto per oggi lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, indetto dall'Unione Sindacale di Base USB Federazione Lavoro Privato. Per il comprensorio di Gorizia e l'Isontino, l'astensione dei dipendenti di azienda provinciale trasporti APT sarà in vigore dalle 9.01 alle 11.59 e dalle 15.01 a fine servizio. Tra le rivendicazioni avanzate dal sindacato, il diritto alla sicurezza, il diritto di sciopero e un salario minimo per legge a 10 euro l'ora, oltre al superamento del sistema di appalti e subappalti ad aziende private e all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Alle 7.33 siamo alla cronaca. Alla stazione di Trieste del soccorso alpino, assieme ai vigili del fuoco e al personale dell'ambulanza, hanno soccorso ieri un arrampicatore infortunatosi per le conseguenze di una caduta da parete rocciosa in Napoleonica, in comune di Prosecco. Il giovane, un trentenne pugliese, stava risalendo una via nel sentiero denominato Cristo quando ha perso l'equilibrio ed è caduto fino a terra dopo un volo di 5 metri. Politraumatizzato, ma non in gravi condizioni, è stato raggiunto e valutato dal medico dell'ambulanza, a sua volta condotto alla base della parete dai soccorritori in sicurezza con una corda. Stabilizzato, imbarrellato e condotto con la barella in verticale lungo la sottostante paretina di accesso alla falesia, che presenta tratti di primo grado. Grande collaborazione tra i soccorritori e vigili del fuoco, che erano peraltro già in Napoleonica per un'esercitazione. In ambulanza il ferito è stato portato all'ospedale triestino di Catinara. Ancora cronaca, la stazione di Udine del soccorso alpino è stata allertata ieri dalla struttura operativa regionale emergenza sanitaria SORES come supporto all'elisoccorso regionale per portare assistenza a un ciclista 17enne di Trento caduto durante una gara in mountain bike sul monte Matajur. Il giovane è caduto da una quota di 1400 metri sul versante sud-ovest del monte, procurandosi una frattura, un arto superiore. All'arrivo dell'elicottero il ragazzo era già stato preso in carico dal personale di assistenza alla manifestazione sportiva. Il personale di soccorso ha stabilizzato il ragazzo, l'ha imbarrellato e vericellato a bordo con 40 metri di verricello. L'ex pilota delle Frecce Tricolori Beppe Liva, ferito sabato nell'incidente aereo nei pressi dell'aeroporto di Campoforum, ed è stato dimesso dall'ospedale. Secondo la ricostruzione era atterrato nel vicino aeroporto ed era subito ripartito senza fermarsi. In fase di decollo, a una quota di 80 metri, il motore ha perso autonomamente potenza. Liva si è quindi diretto verso un campo arato dove è riuscito ad effettuare un atterraggio di fortuna. Sarà aperta un'inchiesta dell'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo. Manovre salvavita semplici ma strategiche per evitare il soffocamento nei bambini sono state illustrate dal vivo a Palma Nova, cura della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica. Una manovra che può salvare una vita è l'iniziativa della SIMEUP, la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica. Medici e infermieri sono andati nelle piazze italiane, come a Palmanova, per illustrare come intervenire se un bambino resta soffocato. Episodi che possono avvenire con lo svezzamento, quando il bambino inizia a mangiare cibi nuovi, oppure se inghiotte oggetti piccoli. Con l'aiuto di manichini su misura, gli specialisti della rianimazione pediatrica hanno spiegato le manovre da eseguire, senza farsi prendere dal panico. La dottoressa Elisabetta Miorine, direttore della struttura di pediatria di Palmanova Latisana. È importante sapere intervenire subito, perché molto spesso il tempo per l'arrivo del soccorso può non essere sufficiente per salvare il bambino. Si tratta di manovre semplici che con un poco di pratica genitori e nonni possono imparare e far diventare un automatismo. Nel bambino piccolo, sotto l'anno, si pone il bambino su un piano rigido con la testina più in basso rispetto al resto del corpo e si danno delle pacche vigorose tra le scapole. Se queste 5 pacche non sono, diciamo, sufficienti per liberare le vie aeree dall'ostruzione, vengono fatte 5 compressioni toraciche, ponendo 2 dita perpendicolarmente all'altezza della metà inferiore del torace, e devono essere vigorose e brusche in modo da ottenere una specie di tosse artificiale, cioè si cerca di aumentare bruscamente la pressione all'interno del torace per far espellere il corpo estraneo. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato inaugurato a Forni Avoltri il nuovo ponte sul torrente Acqualena, che collega la frazione di Avoltri con la pista forestale che porta al centro Biathlon. L'opera fa parte di un più complesso intervento di messa in sicurezza del territorio sulla destra orografica del torrente, finanziato dalla Protezione Civile Regionale per un valore di 1.700.000 euro. Della pista forestale sono visibili diverse opere per la mitigazione del rischio idraulico. Il Consiglio Comunale di Trieste si riunirà alle 17.30. Tra gli argomenti in discussione la richiesta di realizzazione di nuovi asili nido, gli interventi a contrasto del disagio giovanile e la riorganizzazione del servizio unico emergenze in area giuliana. E anche il Consiglio Comunale di Pordenone si riunirà nella sala consiliare del Palazzo Municipale alle 17.30. Tra gli argomenti in scaletta, la situazione della scuola dell'infanzia di Via Mantegna, la regolamentazione del divieto del fumo nei parchi, la compartecipazione del comune alla spesa per la raccolta dei rifiuti al fine di evitare un aumento delle tariffe. Nuovo mandato per il Consiglio Camerale della Camera di Commercio Pordenone Udine, che oggi prevede la prima riunione dopo l'accorpamento delle due realtà camerali. All'evento, in cui è prevista anche l'elezione del Presidente, saranno presenti l'assessore alle attività produttive della Regione Sergio Bini e il segretario generale di Union Camere Nazionale Giuseppe Tripoli. Appuntamento a Udine nella sede camerale con ingresso da Piazza Venerio alle 12.45. CNA Next Lab 2023, rigenerazione, la sfida per la sostenibilità, e il convegno della Confederazione Nazionale dell'Artigianato dedicato alla sostenibilità e al ruolo dell'imprenditoria in un'epoca caratterizzata da cambiamenti climatici e varie trasformazioni nell'ambito economico. Appuntamento ad Aiello del Friuli, a Villa Luisa Strassoldo, alle 16. A seguire si svolgerà l'assemblea annuale CNA del Friuli Venezia Giulia, intitolata Opzione Artigianato, Ritorno al Futuro, aperta dal presidente regionale Maurizio Meletti, a cui parteciperà il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Alle 7.39 siamo allo sport. L'Udinese continua ad arrancare in campionato poco sopra la zona rossa della retrocessione. Infortuni degli attaccanti e il collettivo che deve ancora amalgamarsi tra le giustificazioni del team, che per ora tiene Mister Sottil al suo posto. All'Udinese manca il gol, ma non solo. A quella vista contro Genoa ed Empoli anche identità e gioco. Una sconfitta al Castellani avrebbe costretto il club friulano a riflessioni quasi obbligate sul futuro del tecnico Andrea Sottil. Il VAR dà ragione alla regola dell'equilibrio, anche se 5 punti in 8 gare sono pochi e la zona rossa è a un passo. La causa principale sono sicuramente gli infortuni in attacco, che tolgono a Sottil i nuovi arrivi, Brenner e Davis. Un talento che è più di una promessa, Semedo, è il leader spagnolo Deulofeu. 4 reti segnate con un autogol fanno comunque tenere accesa la spia d'allarme di un inizio tanto difficile, con una valigia da trasferta che si trascina dallo scorso campionato quasi vuota di punti. 3 nelle ultime 9 partite. L'ultimo successo a marzo proprio allo stadio Castellani di Empoli grazie alla rete di Becao. Di lui in difesa e in fase di sviluppo del gioco sulla corsia di destra ancora l'Udinese avrebbe bisogno. Serve tempo per crescere. Continua a ripeterlo a ragione Sottil, che ora ha 2 settimane di tempo prima della sfida al Friuli in posticipo contro il Lecce. L'occasione per una vittoria, la prima, altrimenti, eguagliato il record negativo di partenze dopo le prime 8 gare nell'era dei 3 punti, per l'Udinese sarà tempo di scelte difficili. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ieri tutte le squadre regionali di basket erano in campo per il campionato di A2 e tutte e 3 hanno vinto. Pallacanestro Trieste in trasferta contro il San Giobbe Chiusi è tornata a casa con un 65-76. La Paul Wild West Udine, che ospitava il Pallacarnera, la Segeco Piacenza, si è imposta con un 91-82, mentre Gestecco Cividale, che giocava sul parquet dell'Agribertocchi Orzinuovi, ha vinto con il punteggio di 66-72. Calcio femminile, troppo forte è la capolista ternana per un Tavagnacco che non si rende mai pericoloso e che riesce a difendersi solo nella prima parte del match. È finita 5-0, un passivo pesante che non ammette replica. 7.41, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani che oggi trovate in edicola. È tutta dedicata alla Barcolana, la prima pagina dell'edizione di Trieste del Piccolo. Il titolo di apertura è Il ritorno, si riferisce alla vittoria di Benussi che ha riportato la Coppa a Trieste. Nel sommario si informa sulle 1102 barche che hanno tagliato il traguardo, mentre un altro titolo dà conto della presenza alla manifestazione di Wendy Schmidt, la vincitrice della scorsa edizione, e un altro servizio si occupa del quinto posto conquistato da Barra Onda, la barca dell'armatore Lucio Provvidenti. Nell'interno, oltre a storie e testimonianze del disastro del Vajont, il capocronaca interno si occupa della riqualificazione del Colle di San Giusto, che ora prevede una fase di sondaggio archeologico prima del cantiere che si occuperà del piazzale di San Giusto. Ancora in tema infrastrutture, i 15 cantieri cittadini per i marciapiedi, come quello in via Vasari e quello in via Locchi, a fronte di interventi per 2.800.000 euro. Una grande fotografia in bianco e nero in apertura di pagina sul Messaggero Veneto di Udine ricorda i 60 anni della tragedia del Vajont e rimanda ad uno speciale di 16 pagine curato dai giornalisti di Viale Palmanova. Al centro pagina il titolo principale dedicato all'aumento dei casi di truffa in regione, dai falsi funzionari dell'INPS al trucco dell'abbraccio, al messaggio trappola, come difendersi. Economia nella colonna di sinistra, con la mancanza di muratori in edilizia, uno su tre andrà in pensione entro 5 anni, e la denuncia degli artigiani friulani, troppe tasse e pensioni basse. Colonna di richiami di sport a destra, con in altro per il calcio l'analisi di Del Neri che ammonisce: servono giocatori per sviluppare gioco. Sotto le vittorie nel basket per Old Wild West e Gesteco Cividale, e ancora la vittoria di Arche in una barcolana senza vento. A piedi pagina un richiamo di teatro con Haber che racconta la messa in scena del suo Zeno. L'edizione di Udine al Gazzettino mette in risalto l'arrivo del Presidente della Repubblica per le commemorazioni del Vajont, nuovi aiuti agevolati per il ristoro dei danni del maltempo e la vittoria del Cavazzo del campionato carnico. Anche l'edizione di Gorizia del Piccolo dedica la prima pagina alla barcolana, riservando però anche spazio sia alla commemorazione del Vajont sia ai 60 anni di attività di una fonderia di Mariano che figura tra le imprese artigiane a gestione familiare più longeve. Capocronaca interno, il sistema cittadino di bike sharing, che entro il 2025 dovrebbe diventare transfrontaliero, unificato e integrato con Nova Gorizia. Capocronaca interno della pagina di Monfalcone, la situazione delle scuole cittadine, che in controtendenza registrano il tutto esaurito nelle classi primarie e hanno già previsto una lista d'attesa. Dalla pagina di Grado, la questione della concessione demaniale della spiaggia marina alla Grado Impianti Turistici GIT, che potrebbe essere prorogata fino al 2024. Nel contempo l'arenile necessita interventi di ripascimento a causa delle continue e sempre più forti mareggiate. A breve sarà presentato un progetto per ottenere un finanziamento regionale. Anche il Messaggero Veneto di Pordenone riporta la fotografia in bianco e nero per ricordare la tragedia del Vajont di 60 anni fa. Per la cronaca di Sacil, la comparsa di un altro messaggio su Allah in arabo vicino alla chiesa, e a Fiume Veneto un ragazzo finisce in ospedale per una pallonata che l'ha colpito la nuca. Nella prima pagina dell'inserto parla il pilota dell'ultraleggero caduto, pensavo solo a salvare il ragazzo, e poi un lungo articolo dedicato all'udienza di oggi a Trieste per l'indagine su una bomber con l'analisi dei reperti del DNA che potrebbe prolungarsi. Vi racconto il mio Vajont, il titolo dell'intervista a Beppi Vazza, superstite guida storica locale, che afferma: ricordo tutto e rivivo il dolore. Anche sul quotidiano torinese La Stampa è pubblicato un servizio in tema a firma del geologo Mario Tozzi, intitolato La lezione dimenticata del Vajont, stop al cemento nelle zone a rischio. Siamo agli spettacoli. Nel programma di oggi delle giornate del cinema muto si comincia alle 10 con un film tedesco, Das Teufelsauge, L'occhio del diavolo, del 1914, interpretato da Ludwig Trautmann. Poi alle 12 La madre, del 1917, di Giuseppe Sterni, mentre alle 14.30 Reverde Clown, del 24, l'unico lungometraggio conosciuto e interpretato dal famoso trio dei clown francesi di origine italiana, Le Fratellini. Alle 16 The Only Thing di Jack Conway, del 1925, ma soprattutto omaggio a Pierre Loti alle 17.45, a 100 anni della scomparsa, con un ricco programma di immagini e cortometraggi ispirati alla sua opera narrativa. E poi alle 21 la proiezione di Donne viennese, Merry Go Round, controverso film del 1923, firmato da un personaggio leggendario della storia di Hollywood, il viennese Erich von Stroheim. Ha conquistato il primo posto a livello nazionale il video che promuove l'igiene delle mani, realizzato da un gruppo di 8 studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Udine. Il video ha partecipato alla sfida creativa annuale indetta dal gruppo italiano Studi Igiene Ospedaliera della Società Italiana di Igiene. Il tema del concorso di quest'anno era accelerare azioni insieme, salvare vite e pulirsi le mani. Nella realizzazione del video l'intuizione di coinvolgere attori e attrici di tutte le età. Sono le loro mani in primo piano a essere le protagoniste del filmato, insieme a luoghi e azioni della vita quotidiana di tutti, e una colonna sonora cantata da una delle studentesse del progetto. Il vice sindaco di Trieste, Serena Tonel, conferirà a Giusy Batain, direttrice e fondatrice dell'associazione ABC Bambini Chirurgici del Burlo, il sigillo trecentesco della città nel salotto azzurro di Palazzo Municipale alle 11. L'iniziativa è intesa a riconoscere il supporto prestato dal 2005 dall'associazione ai piccoli pazienti nati con malformazione e alle loro famiglie in tutto il percorso di cura, prima, durante e dopo il ricovero. Rotta balcanica capolinea Trieste, il convegno dedicato alle problematiche connesse ai flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica sul territorio. Tra i relatori l'inviato di guerra Fausto Biloslavo, l'ex dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Colasanto, l'assessore regionale con delega alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Appuntamento a Trieste in sala Unicusano in via Fabio Severo alle 17. Libertà di stampa, democrazia e pluralismo, l'evento a cui parteciperanno oggi il presidente dell'associazione Articolo 21 Giuseppe Giulietti, oltre a Carlo Muscatello, presidente della sua stampa del Friuli Venezia Giulia, e l'avvocato penalista Andrea Castiglione, a Zugliano al Centro Balducci alle 17.30. Dal 2020 la Lega Navale Italiana detiene la concessione della diga vecchia di Trieste, di proprietà dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. Progetto originario era il rilancio della struttura con una scuola di pesca, vele sub, dedicata anche a persone diversamente abili. Al momento però la diga è in condizioni critiche, se ne parlerà a Trieste, nella sede della Lega Navale, al Molo Fratelli Bandiera, alle 10. A Federico Bonazza, presidente della sezione giuliana della Lega Navale, abbiamo chiesto quali siano le condizioni attuali della struttura. Non certamente felice, perché è in mezzo al mare, con la bora che scava le pietre, che scava tutto. È evidente che una costruzione lasciata senza cura ovviamente deperisce. Per poterla ripristinare la prima cosa da fare sarebbe innanzitutto metterla in sicurezza. Le famose cabine del vecchio bagno, che tutti ricordiamo, stanno crollando perché il mare si è mangiato le fondamenta delle cabine, quindi le cabine stanno letteralmente crollando. I cornicioni delle due principali costruzioni sono pericolanti, ormai ci sono i ferri fuori, si vedono le armature, quindi sarebbero da ripristinare anche tutti i cornicioni. Una volta che riusciamo a installare sulla diga vecchia le nostre attività sportive, noi non siamo in grado di gestire per esempio la balneazione, e quindi potremmo dare ad un privato interessato la gestione della balneazione sulla diga, come tanti anni fa, che era un bagno assolutamente apprezzato da tutta la città. Sulla diga vecchia, oltre a questa prima messa in sicurezza, il ripristino delle casette attualmente esistenti, il ripristino anche della zona balneare, richiederebbe all'incirca 1 milione di euro. Questa è una stima prudenziale che è stata fatta dai nostri tecnici, e noi in quest'ottica ci muoviamo. Quindi nella riunione di quest'oggi chiediamo un po' un impegno complessivo di comune, regione, autorità portuale, consorzio Ursus, per arrivare ad un risultato comune. In occasione del ricorso del 60° anno della tragedia del Vajont, la rete delle lotte ambientali e climatiche del Friuli Venezia Giulia ha organizzato un presidio a Udine, in piazzale Paolo Diacono, di fronte al Teatro Palamostre, alle 19.30, per protestare contro problematiche che spaziano dall'inceneritore a Spilimbergo al progetto della Cronospan a San Vito, fino all'Ovovia di Trieste. Ricorre oggi anche la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi PAS e PANDAS, neuroinfiammazioni di origine autoimmune che si manifestano da un bambino su 200 con sintomi neuropsichiatrici di vario grado a seguito di infezioni recidive da streptococco. Per l'occasione a Trieste la Fontana del Nettuno di Piazza della Borsa sarà illuminata di verde, iniziativa analoga è prevista anche a Udine per i palazzi di via Mercato Vecchio. A Udine il Caffè Contarena, Piazza Libertà, Via Rialto, Via Leonello, Via Cavour, Via Giovanni da Udine, Via Treppa e Piazza Marconi da oggi fino a domenica 15 saranno coinvolte dai lavori di ripresa del nuovo film del regista Gianni Amelio. La produzione ha richiesto alcuni accorgimenti, in particolare la rimozione di alcuni arredi urbani non consoni agli anni della Grande Guerra in cui il film è ambientato, oltre allo spegnimento dell'illuminazione pubblica nelle aree interessate alle riprese. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti di oggi: l'inaugurazione della mostra del 70° anniversario della fondazione del Circolo Filatelico Sloveno di Trieste è in programma a Gorizia, Kulturni Dom, alle 18. La mostra rimarrà aperta fino al 20 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Il Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo della Lingua e della Cultura del Friuli consegnerà gli attestati del corso concorso di Friulano C2 e proietterà il film Piccolo Corpo a Udine nell'aula trasoldo dell'Ateneo Cittadino di Via Tomadini alle 16. La serata spettacolo di Cabaret Sorridiamo con Ail, che devolverà il ricavato all'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, si terrà a Sacile al Teatro Zancanaro alle 21. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Vuof Evelindi, che parlerà dell'ufficio minori, divisione anticrimine della Questura di Udine, che opera per la prevenzione con interventi addirittura dall'asilo. Alle 11.20 andrà in onda Peter Pan. Apriremo la diretta di oggi con un ricordo delle 2000 vittime del Vajont a 60 anni della tragedia attraverso il racconto di Gino Mazzorana, che alle 9 ottobre del 1963 aveva 10 anni. Poi saranno ospiti il Vescovo di Trieste Enrico Trevisi e Rosy Russo, formatrice sociale manager, ideatrice di Parole Ostili. Seguirà lo speciale GR1, 60 anni della tragedia del Vajont. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Era questa la nostra ultima notizia, ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Federico Commar e Eugenio Giuffrida. Da Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.